La mia testa viaggia in mondi che non so descriverti. Vengo dal niente, della paranoia, ponendomi domande su quali siano i miei limiti. Paranoia, quella che racconta ogni tratto dei miei limiti. Paranoia, un pulso nella testa che mi ha sempre messo in vivi. Siamo sempre le solite, solide cose che non vanno. Pioggia di blocchi di marmo con le poche cose che tengo sul palmo. Stallo della vita in un futuro messo sul forse, mentre cripto battiti d'anima in codice morse. Se mi fermo mi sento perso, un passo dal collasso. Eclissi in testa, massi di prolissi gesta lasciano di sasso. Di sosso lo scarno, caos calmo, trocchi fissi sulla lama, vedo il sangue. Calmo la mia faccia, specchio d'acqua il sonno che mi passa. La testa crea temporali sull'ali della pressione che abbassa. Bestia batte cassa stare assegnazione, l'odio che mi fa reagire, trovo la forza per non dire basta. Taglio ricordi sul ritmo di errori, ripetizione. Fossi andato via sarei stato un coglione, sarebbe stato uno spreco, un insulto al mio valore, a chi mi vuole bene e alla fine sa ciò che dico. Ammasso ste lenzuola, rosso sangue questa notte, faccio il polso, metto tutto a posto questa notte. Proietto nuove lotte, riprometto che poi troverò suo senso nel mondo a rovescio. Ammasso ste lenzuola, rosso sangue questa notte, faccio il polso, metto tutto a posto questa notte. Proietto nuove lotte, riprometto che poi troverò suo senso nel mondo a rovescio. Rotazione dell'essenza, l'essenza di chi sente troppo. Alienazione immersa in un bagno di vita artificiale. Purtroppo oggi a me ogni azione non risponde ancora al suo presupposto, ma non posso farmi male, non vale il suo costo. Per mia madre tutto quello che c'è stato ed è finito, per riempire i buchi che c'ho dentro, sentirmi realizzato. Mi prendo tutta l'acqua in questo temporale infinito, tecnico del buio, col cuore in subbuglio, sono il mio mito. Quello che ero rimasto impiccato in una gabbia dorata, piango rime su fogli che brucio, colata lavica, con sorriso così grande come per dire a volte capita che manco ci pensi, poi ci rimani, che dietro ci nascondo tutti quanti i miei piani, sempre con sta vita in storno che rincorro, non stormo d'occhi da vari blocchi grigi che non percepisci, quanto sia preziosa dopo la seconda volta lo capisci. Ammasso ste lenzuola, rosso sangue questa notte, faccio il polso, metto tutto a posto.